Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ed eccoci qui, cari ascoltatori, sono le 8:14 primi e 27 secondi e qui è ancora per diversi giorni solo Scaggianino senza Alessandro Milan, che abbraccio a distanza, attenti a noi due in questo mercoledì 28 dicembre 2016, santi del giorno. Beh, oggi sono dei santi innocenti e infatti si chiamano proprio così, sono gli innocenti martiri. Chi sono? Sono quei poveri bimbi che il signor Erode, avendo saputo con la conferma dei re magi che era appena nato, stava nascendo un bambino che avrebbe avuto un destino regale, e non capendo che non si trattava di qualcuno che gli avrebbe levato il trono, ma immaginando invece che fosse così e temendo, diede, come sapete, come molti di voi ricordano, istruzioni al suo esercito di far fuori tutti quelli che erano appena nati, e quindi i martiri innocenti sono quelli che ricordiamo fatti uccidere da Erode. Tra le cose da ricordare nel passato, in questo 28 dicembre avvenute, la nascita del cinema, la prima proiezione del film dei Fratelli Lumière nel 1895, il terremoto di Messina, terrificante evento nel 1908, questo giorno si stima intorno a un'intensità di 7,1 gradi della scala Richter, 100.000 morti stimati, per essere chiari, tra terremoto e l'onda poi di marea che si abbatté sulla costa. Nel 1979, oggi, le truppe sovietiche invadevano l'Afghanistan. Da allora praticamente, ma come era già avvenuto nell'Ottocento con i britannici e così via, non si è mai interrotta la guerra in quel devastato paese. Allora, veniamo un pochino ai temi di oggi. Io subito vi dico che abbiamo due ospiti nell'arco della trasmissione e vi invito subito a telefonare quantomeno sui temi che tratteremo tra poco con il primo ospite, perché come confermato da diversi giornali italiani si avvicina la pronuncia della Corte Costituzionale sui tre quesiti in materia di lavoro, sui quali la CGIL ha raccolto più di 3 milioni e mezzo di voti. Lo sapete, uno è per l'abrogazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori come modificato dal Jobs Act, e La Stampa però di Torino oggi è il giornale che più si porta avanti, con un articolo di Roberto Giovannini a pagina 2 in cui dice che su questo quesito la Consulta si pronuncerà per la non ammissibilità del quesito, perché vi è un punto: la CGIL non chiede solo il ripristino delle vecchie norme più vincolistiche in materia di licenziabilità, con la reintegra giudiziale in generale per i lavoratori dipendenti, per le imprese sopra i 15 dipendenti, come era prima del Jobs Act, ma lo fa per le imprese, lo propone per le imprese sopra i 5 dipendenti, poiché i referendum abrogativi non possono avere effetti creativi rispetto alla norma di cui chiedono la decadenza. L'interpretazione, la notizia, l'indiscrezione che La Stampa conferma è che su questo quesito la Corte Costituzionale andrà a no per la non ammissibilità, però ne restano altri due. Uno di questi chiede l'abrogazione dei voucher, l'altro invece l'abrogazione di una norma in materia di responsabilità e corresponsabilità di stazioni appaltanti, quindi appaltatore e subappaltatore nei contratti di lavoro. Ma cadendo se ha ragione la stampa, il quesito sull'articolo 18, quello più di punta diventa proprio l'abrogazione dei voucher, che vengono accusati di essere strumento di massa del nuovo precariato. Di questo ci occuperemo tra pochissimo con un ospite, quindi dite la vostra su questo, chiamateci all'800240024. Avete voi l'impressione che i voucher siano una nuova forma di precariato di massa, oppure volerli abolire dopo che abbiamo abolito tutti i contratti a tempo vari e diversi, Cocopro, Cocopro e Cococò? È un'espressione un po' rigida del ritorno del lavoro, come se potesse essere disciplinato solo dai contratti a tutele crescenti, cioè dal tempo indeterminato. Fateci sapere e chiamate su questo. Poi avremo un altro ospite, il professor Remuzzi, che ha un'idea sul perché bisogna accelerare le assunzioni nella sanità, ma parleremo anche di un suo libro, Siamo Geni, che trovate nelle librerie e che vi consiglio caldamente di leggere. Ma prima di questo lasciatemi spizzicare sui temi di maggiore interesse, a mio giudizio, sui giornali di oggi. Sicuramente un grande capitolo riguarda le reazioni del Monte dei Paschi e del Tesoro italiano alla notizia bomba di ieri, che era quella della vigilanza BCE, che è passata da una formulazione di 5 miliardi di euro dell'aumento di capitale di Siena, saltato il piano di mercato, e una volta che si fa l'aumento del tesoro, l'aumento di capitale precauzionale con intervento dello Stato, per passare a 8,8 miliardi. Ecco, su questo i giornali hanno una forbice di posizioni abbastanza varia. Per esempio il Messaggero titola "Il tesoro in pressing sulla BCE", cioè il quotidiano diretto da Virman Cusenza dice che c'è una, leggo il titolo, irritazione del governo, la BCE deve trattare, noi non siamo la Grecia, ha dettato per Siena criteri eccessivamente severi, perché a 8 miliardi, come vi ho detto ieri, ci si è arrivati per la valutazione della vigilanza, che a questo punto sia necessario ripristinare anche un buffer, cioè un cuscino di capitale aggiuntivo, visto che la conversione obbligatoria dei subordinati, che avviene in presenza dell'aumento di capitale precauzionale con intervento dello Stato, li fa uscire da elementi di capitale ponderato che invece restavano nei total capital ratio, cioè negli indici patrimoniali della banca. Questo fatto fa aumentare di 2 miliardi rotti la richiesta, e per il resto invece l'aumento residuo rispetto ai 5 miliardi deriva da come lo Stato interviene sul ristoro dei subordinati. Detto tutto questo, il Messaggero dice il governo è incazzato. Ecco, per essere chiari, la BCE deve trattare, non ci possono trattare così, i 20 miliardi bastano e così via. A me interessa sottolineare invece con maggiore interesse, perché questo è un dato di fatto, i giornalisti del Messaggero riferiscono l'irritazione del governo, vi segnalo invece il pezzo di Federico Fubini sul Corriere della Sera, che a me è piaciuto tantissimo, in cui si documenta e si ricostruisce le vere cifre dell'aumento per MPS, scrive Federico Fubini, e mette in fila tutti gli incredibili errori, perdonate, alcuni ai limiti anche dei reati penali, della manipolazione dei prezzi, compiuti nei mesi alle nostre spalle. Questi investitori istituzionali, che poi a vedere bene, di cui si dicevano prossimi a intervenire, non sono mai esistiti, perché Federico Fubini, secondo me, come risulta anche a me, come risulta ad altri colleghi, anche se i giornali non hanno amato scriverlo nelle settimane, nei mesi precedenti, in realtà l'interesse di Soros, del fondo di Qatar, è stato diffuso dalla politica, ma poi uno andava a grattare sotto la vernice e qui non c'era niente di ufficiale, niente di formale, tanto per dirne una. Un ruolo della Consob tutto da approfondire, scrive Federico Fubini, e sono molto d'accordo. Un piano del tesoro che dopo mesi e mesi doveva essere pronto a scattare, già contrattato con l'Unione Europea, e invece questo piano non è affatto contrattato. Quindi non solo vi segnalo questo, ma vi segnalo per esempio da Repubblica, tanto per capire come quanto il governo è arrabbiato, scrive Andrea Greco, perché dal decreto in materia bancaria che ha disciplinato l'intervento con i 20 miliardi per l'intervento nelle banche, di cui il primo è appunto per MPS, Andrea Greco su Repubblica vi spiega come mai una delle norme di cui era attesa l'adozione da mesi sulla disciplina fiscale delle deduzioni stralcio dei crediti bancari dal bilancio delle banche, quindi è un criterio per omologare la disciplina italiana, che in questo è più restrittiva di quella europea, e mettere le banche italiane in condizioni di incassare crediti fiscali esattamente come le loro omologhe europee. E questa norma era attesa perché è una penalizzazione rispetto alle banche degli altri paesi. Come mai manca dal decreto questa norma, che da tanto tempo era già stilata con l'accordo del governo? Perché, vi spiega Andrea Greco su Repubblica, il governo è incazzato perché Unicredit non ha ceduto la sua grande piattaforma di gestione del risparmio Pioneer, non l'ha data a Poste, cioè allo Stato, ma l'ha data ai francesi di Amundi. E quindi a questo punto voi capite che un governo così pieno di interesse generale si comporta come un bambino e dice: tu non hai dato Pioneer a me e io levo la norma per l'omologazione della disciplina fiscale dei crediti, la levo dal decreto. Capite che questo è il modo in cui, in un paese pieno di difficoltà bancarie, il governo si comporta, per così dire. Vi segnalo poi anche l'intervista di Carlo Calenda alla Stampa, su cui la Stampa invece fa il titolo d'apertura. Il ministro dello sviluppo economico rilascia un'intervista a Marco Zattarin in cui dice: il 2017 sarà decisivo per sconfiggere i populismi, d'accordo, ma insomma in realtà è pieno di segnali su alcune vicende concrete, a cominciare da quella su cui la Stampa fa il titolo: Bolloré può paralizzare Mediaset, sintesi estrema, il governo Gentiloni è molto molto molto attento a dare una mano a Berlusconi su questo, ne lo considerano una vicenda importante, una vera priorità nazionale, e fa capire che il governo potrebbe essere davvero pronto ad alcune mosse che io mi auguro non avvengano mai, come l'assunzione di 2 miliardi e mezzo di partecipazione in Telecom Italia attraverso Cassa Depositi e Prestiti. Mio Dio, cioè stiamo facendo l'esatto opposto di quello che serve in questo paese. Lo Stato rientra nelle banche, lo Stato si candidava a prendere la più grande piattaforma di titoli del debito pubblico italiano, cioè Pioneer, di cui vi ho parlato prima. Lo Stato vuole rientrare in Telecom per dare una mano a una vicenda che invece riguarda Medias, ma riguarda tutt'altro, e quindi io mi auguro che questo non avvenga, per così dire. Però segnalatevi questi temi, oltre al fatto che poi i giornali continuano a interrogarsi sul tragitto e sulle reti di sostegno al terrorista tunisino freddato, per fortuna, a Sesto San Giovanni dopo aver compiuto la strage di Berlino. Torniamo al tema che vi avevo preannunciato, cioè al quesito che a questo punto, se come dice la Stampa, dei tre quesiti della CGIL quello sull'articolo 18 dovesse cadere, diventa quello politicamente più rilevante dei possibili referendum in materia di lavoro, cioè quello, lo ripeto, sull'abrogazione dei voucher. Oggi sui quotidiani mi segnalo su questo argomento, non tanto il mio editoriale in cui spiego come la penso su Mattino e Messaggero, ma ci sono due prese di posizioni molto nette. Perché Landini, il leader della FIOM, su Repubblica lancia attraverso un'intervista un altolà molto secco, e rivolgendosi al PD e al governo, Landini dice: vorrei essere chiaro, qui non si tratta di pensare a modifiche su questo o quel punto dei percettori o dei settori da escludere dall'utilizzo dei voucher, perché se il PD pensa questo e vuol fare il furbo per non farci fare il referendum, per favore sbaglia. I voucher non si cambiano, ma vanno aboliti del tutto. Questa è la tesi di Landini sul quesito e sul referendum e sull'atteggiamento da tenere da parte del PD. Ci sono poi delle interviste invece di Roberto Speranza, l'ex capogruppo del PD, ne trovate una per esempio sulla Stampa, in cui rispetto alla posizione di Landini si articola un ragionamento diverso. Oddio, il punto di partenza anche di Speranza all'interno del dibattito PD è analogo a Landini, perché è secca la critica nei confronti di Renzi e dei renziani, e dice testualmente Roberto Speranza: basta col PD, amico dei potenti. Gentiloni può durare solo se affronta la questione sociale. A me sembra tuttavia che Speranza sia più aperto rispetto a Landini a delle modifiche, sia pur molto profonde, a chi inibire l'utilizzo dei voucher. Per parlare di questo argomento abbiamo con noi Filippo Taddei, responsabile nazionale economia del PD. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno, buongiorno a lei e agli radioascoltatori. Allora, come risponde a Landini e a Speranza? Ma sì, prima di tutto dicendo che i fatti vengono prima delle opinioni. Cioè, guardate, innanzitutto un po' di storia. Si pensa che, è evidente che c'è un'operazione anche che ha una sua venatura politica, in quanto dice Landini. Questo referendum sui voucher viene visto come un attacco al Jobs Act. Io dico che lì proprio si sbaglia il bersaglio, perché se c'è una cosa su cui il Jobs Act ha avuto un intervento marginale e in prima battuta e poi di stretta in seconda battuta con i correttivi, sono proprio i voucher. Voucher che io, una breve, guarda, io lo so che il mio interlocutore lo sa benissimo, magari gli ascoltatori. No, gli ascoltatori fa bene invece un po' di capi. Non tutti sanno cos'è il voucher. Esatto, no, magari sono semplicemente come mia moglie che l'ha scoperto utilizzandolo, perché uno non deve mica essere un esperto di diritto del lavoro, dei contratti. L'idea era semplice, nella Biagi prima viene pensato di dire, beh, ci sono alcune prestazioni che hanno una natura occasionale, temporanea, che sono totalmente in nero in Italia, e quello che passa nella categoria dei classici lavoretti, ma che poi vuol dire per una famiglia magari la babysitter, le ripetizioni, le pulizie saltuarie. Per un'impresa vuol dire magari fare fronte a improvvisi picchi di produzione, tipicamente nei servizi, pensate al turismo, pensate a tutti quelli, magari non penso che siano solamente amici miei o il sottoscritto, che da ragazzo, quando si comincia magari a lavorare, poi in un bar, io facevo volantinaggio politico, distribuzione di volantini a fini commerciali, venivo pagato come tutti gli italiani del mio paese, come tutti gli italiani in nero, insomma, abbiamo denuncia, insomma, era 25 anni fa, ero un ragazzino e così succedeva. Bene, allora si pensò di dire, mettiamo uno strumento semplice che non è uno strumento mirato a stabilizzare il lavoro centrale nella vita, ma appunto a far fronte che quel lavoro che sia accessorio per sua natura, cioè marginale nella vita delle persone, nella vita delle aziende, possa essere inquadrato, avere dei contributi previdenziali, essere protetto nel caso di infortuni ed essere quindi regolarizzato. Questa era l'idea principale della Biagi. E poi passano gli anni, nel 2008 comincia una prima sperimentazione, pensate, della vendemmia che coinvolgeva solamente lavoratori pensionati sotto i 25 anni, dall'allora governo Prodi, ministro del lavoro Damiano. Poi si passa per gli anni il governo Berlusconi per una liberalizzazione sempre più marcata, fino a quando arriva la Fornero che dice, benissimo, questi voucher, cioè questi buoni lavoro, li si possono usare non solamente in alcuni settori, ma in tutti i settori. Arriva nel 2013 il governo Letta e dice, guardate, i voucher non solo si possono usare in tutti i settori, ma si possono usare anche per lavori che non abbiano una natura meramente occasionale. E onestamente lì, insomma, si è allargata parecchio l'ambito di applicazione e si è visto che i voucher infatti hanno cominciato a crescere moltissimo. Arriva a questo punto il governo Renzi e il Jobs Act. Jobs Act fa solamente un passaggio sui voucher, non tocca nulla della sua istituzione inizialmente, dice semplicemente, guardate, se prima il reddito massimo che un lavoratore poteva acquisire dai voucher era 5.000 euro all'anno, eleviamo quel reddito massimo a 7.000 euro per lavoratore, salvo restando il fatto che nessun lavoratore può avere con un singolo committente, cioè una singola impresa, un reddito superiore ai 2.000 euro. Quindi rimane 2.000 euro per la singolo rapporto di lavoro, ma si eleva la soglia massima. Giusto per dare un'idea dei numeri, la soglia massima, elevare la soglia massima da 5 a 7.000 euro, coinvolge in Italia circa 3.000 lavoratori all'anno. Quindi un numero molto inferiore rispetto al 1.400.000 di cui molti leggono e che si sentono sulla stampa. Arriva però, c'è un abuso particolarmente odioso sul lavoro accessorio e sui voucher, che funzionava così. Dico, uso il passato perché è un abuso che viene cambiato dal governo Renzi. Cioè, era questo. Io volevo che Oscar Giannino lavorasse per me in questo appunto lavoro accessorio. Dovevo prima dire semplicemente Oscar Giannino, lo registro sul sito dell'INPS, metto il suo codice fiscale, metto il mio, metto il luogo del lavoro e metto il periodo del lavoro. Guardate bene il periodo del lavoro. Cosa succedeva a quel punto? Che il committente, cioè quello delinquente, cosa faceva? Infilava ad Oscar Giannino in tasca un voucher, lo teneva lì a lavorare 30 ore, 20 ore alla settimana, 10 ore alla settimana, quanto voleva. Qualora arrivasse l'ispezione, Oscar Giannino poteva tirare fuori il voucher dalla tasca dicendo: quando è arrivato lei, Giannino? E Giannino diceva: io sono arrivato mezz'ora fa, questo è il voucher che mi copre. E quindi il voucher, da strumento di emersione del lavoro nero, diventava esattamente l'opposto, una copertura del lavoro nero, che è esattamente il motivo per cui per me quell'abuso è particolarmente odioso. Arriva allora il governo Renzi e dice: no, questa pratica noi la dobbiamo cancellare perché è contraria alla fine della norma. Introduciamo la tracciabilità in vigore da ottobre scorso, quindi innovazione questa all'interno di un decreto correttivo del Jobs Act, questo sì, un cambiamento del Jobs Act, ma un cambiamento di stretta. Quel che il cambiamento prevede è che qualunque lavoratore che venga preso con i voucher adesso in Italia deve essere, non solo bisogna dire chi sia o dove lavorerà, ma anche da quale ora a quale ora lavorerà, in maniera tale che se io voglio che Oscar Giannino lavori con me a voucher, io devo dire che lavora con me dalle 8 alle 10. Qualora l'ispettore del lavoro si presenta alle 10:30, bene, quello è al di fuori dell'orario prestabilito, quello è lavoro nero e come tale viene sanzionato. Anzi, proprio in virtù del Jobs Act, le sanzioni sono state intensificate e raddoppiate. Dico tutto questo per dire che io non ho nessuna simpatia particolare verso il lavoro accessorio e i voucher, non nemmeno un'antipatia particolare. Ho invece grande antipatia verso le guerre di religione. E quando si scatena una guerra di religione, imputando ai presenti responsabilità che sono del passato e senza nemmeno riconoscere che effettivamente se c'è stata una restrizione nell'uso dei voucher negli ultimi 7 anni, l'unica restrizione che si possa ricordare è quella del Jobs Act. Ok, allora sulla guerra di religione io ho per così dire religiosamente ascoltato il suo ragionamento, che devo dire agli ascoltatori dal punto di vista fattuale della ricostruzione è correttissimo, cioè quello che ha detto Taddei non è una versione di parte del renziano. I fatti sono andati così, l'evoluzione, l'ingresso nel nostro ordinamento, l'evoluzione di liberalizzazione del voucher non si deve al governo Renzi, che invece interviene con i 3 interventi correttivi che ha detto Taddei. Il punto è a questo punto che fare Taddei, e io sono molto colpito dalla forbice di opinioni. Tito Boeri, il presidente dell'INPS, che a mio giudizio su questo tema la pensa come Landini, perché tutte le sue dichiarazioni sono andate più o meno in questo senso, quando ha presentato il rapporto annuale dell'INPS nella scorsa mesi fa, a maggio e a luglio, in 2 occasioni ha pronunciato parole durissime. Le leggo una frase di Tito Boeri. Sembrerebbe esserci un fenomeno di datori di lavoro che usano i voucher in maniera disonesta per evitare un controllo, per pagare solo in parte ore di lavoro, e inoltre il livello dei contributi che raccogliamo è molto basso, circa 150 milioni, lo 0,2% del totale dei contributi totali dei lavoratori dipendenti che raccoglie l'INPS, mentre i lavoratori che percepiscono i voucher sono oramai l'8%, appunto il 1.400.000 a cui si riferiva prima Taddei, e molto meno di quello che si potrebbe pensare alla luce del numero delle persone coinvolte. Quindi qui ci devono essere dei fenomeni di massa di nuovo lavoro nero. Questa è un'opinione di Tito Boeri. Se uno va a vedere, lei anche questo cita spesso, lo cita il professor Ichino, quindi lo cita chi difende magari la possibilità di correggere i voucher ma non di buttarli dalla finestra. Lei cita uno studio dell'INPS del 2015, proprio dell'INPS, di cui ho ricordato le parole del presidente, diretto a Bruno Anastasia, questo studio del 2015, che mostra come in realtà le parole del presidente dell'INPS sembrano contraddette dai numeri di questo studio, perché questo studio che analizza i percettori a quella data dei voucher, praticamente sommando coloro che sono o pensionati percettori dei voucher o hanno un altro lavoro oppure percepiscono un'indennità prevalente come ammortizzatori sociali, cioè in quel momento sono disoccupati, e dico prevalente perché la media, dice l'INPS, reddito portato a casa dei lavoratori che utilizzano i voucher è coerente con la definizione di uno strumento di lavoro accessorio, cioè è in media di poco più di 500 euro, non sopra praticamente mai 600 euro al mese, ma sommando quelle tre categorie, quindi pensionati, doppio lavoristi e disoccupati che hanno ammortizzatori sociali, dice quella ricerca all'INPS che praticamente i due terzi dei percettori di voucher sono esattamente nell'ambito di un lavoro accessorio, cioè aggiuntivo rispetto e non sostitutivo rispetto a altre fonti di reddito. Le chiedo, questa contraddizione tra le parole del presidente dell'INPS e questo stesso studio dell'INPS, che cosa ci deve dire? Che ha ragione l'uno o l'altro o che bisogna approfondire di più? Quindi le chiedo, ma insomma, se gli dicessero, ma in alcuni settori, in particolare in quel terzo di voucher utilizzati dalle imprese industriali, altre attività produttive, rispetto alla maggior parte che è utilizzato per la cura alla persona, per quello, insomma, per i lavoretti accessori che diceva lei, e le chiedessi, lei che cosa farebbe come nuovo intervento aggiuntivo? A chi darebbe ragione? La ricerca dell'INPS o al suo presidente? Guardi, se mi permette, sarà forse perché ho una frequentazione un po' intensa con il presidente dell'INPS e non voglio veramente fare l'interprete del suo pensiero, perché spiega da solo. Però davvero il suo punto di vista secondo me è un po' diverso rispetto a quello che lei ha rappresentato. Ed è coerente con, in realtà, un aggiornamento di quella ricerca del 2016 che è particolarmente interessante, in cui il dato centrale è quello che lei ha messo in relazione, cioè due percettori su tre dei voucher sono o pensionati o disoccupati o persone che hanno già un altro rapporto di lavoro in cui il lavoro è accessorio. In realtà l'allarme che gettò Tito Boeri, anche in conseguenza di quello, era un allarme che richiedeva innanzitutto esattamente l'intervento che fu fatto dal governo, perché qual era l'osservazione che faceva? Era, guardate, noi osserviamo tanta gente coinvolta, la dico un po' semplicemente però per capirci, tanta gente coinvolta ma pochi contributi versati. Ma perché? Perché c'era il trucco del un voucher in tasca e 10 ore di lavoro. Quindi lei dice, perché? Con la comunicazione obbligatoria preventiva che ci ha ricordato prima, già si è dato una risposta a Boe. Quella la cancelliamo. Poi lei mi dice, come fai a stare sicuro? Ma io, infatti, guardate, io non sono sicuro, però vi dico, aspettiamo i dati. Siccome questo obbligo vige dall'ottobre scorso e i dati con la tracciabilità verranno fuori da fine gennaio. Aspettiamo a fine gennaio. Io dico solo conoscere per deliberare. Poi, che ci siano invece degli abusi che emergono proprio da quella ricerca di Anastasia, che secondo me è proprio una cosa noiosissima, Giannino, vale per lei, per noi. Ah, certo, non è che lo possiamo dare in pasto al pubblico comune. No, ma è pubblica, sono 65 pagine di dati molto dettagliati, ma quello che emerge è che lì ci sono sì degli ambiti, sia settoriali, sia di committenti, molto sospetti, come già viene sottolineato dalla stessa ricerca, che per inciso la ricerca l'ultima cosa che fa è propugnare l'abolizione del strumento. Certo. Ma allora, e in particolare vi faccio un esempio di due settori. L'edilizia è il grande classico. Esatto. Cioè, nel manifatturiero produttivo, ci sono diversi tipi, ci sono anche manifatturieri di servizi dove magari lo strumento può avere un senso, però il manifatturiero produttivo è molto strano, soprattutto nella logistica ci sono degli abusi strani. E poi ci sono alcuni committenti, non pochi per la verità, qualche migliaio di committenti che sono veramente strani, perché sono imprese fatte così, immaginatevi, hanno un paio di lavoratori dipendenti, 2, 3, 4, 5, e poi hanno 100 lavoratori a voucher, 100, capite? Allora, quando io guardo quello, dico, è chiaro che qui c'è qualcosa che non funziona. Allora, ma guardate che questa è una cosa che io, dal punto di vista legislativo, posso correggere. Non voglio dire facilmente, perché devi stare attento quando vai a toccare certo. Questi problemi. Però allora, conclusione, perché il tempo va avanza. Conoscere per deliberare, quindi abbiamo dato di dati spessi, però esistono dei settori, soprattutto nell'industria per capirci, e di tipologie di committenti, quelli in cui l'equilibrio delle diverse fonti di lavoro utilizzate è molto sospetto, e in cui Taddei dice lavoriamo con un decreto ministeriale in Parlamento eccetera eccetera, magari sì, anche sotto lo spunto del quesito referendario, ma si può fare. Non chiudiamo questa forma di lavoro accessorio, perché i dati sembrano indicarci che per il momento non è vero che è diventato il nuovo canale del precariato di massa. Questa sintesi, spero fedele, ringraziamo intanto Taddei. Sapete che i propugnatori del quel referendum non la pensano in questo modo, spesso questi microfoni ho ospitato Marta Fana, non la pensano in questo modo, però insomma, vediamo come evolverà la faccenda. Intanto pubblicità. 24 mattino. Attenti a noi due. È Eccoci qui tornati in studio, la segnalazione di un altro tema che a dire la verità non domina molto sui giornali, però su cui, al quale alcune attenzioni danno invece, è questo della proposta che si avanza in Parlamento, che da una parte vede il gruppo PD dire no, ma andiamo verso la definitiva rinuncia anche di ciò che resta del vitalizio, quindi c'è questa prima facciata molto nobile, molto condivisibile dell'intervento. Dopodiché però si dice però c'è questo piccolo particolare poi dei parlamentari quando non si maturano i requisiti minimi della legislatura intera dei 5 anni, che è meglio sanare così. Restituiamo con una buona uscita ai parlamentari i contributi già versati. Come potete capire, questa norma diventa una specie di olio per ungere i parlamentari attuali e convincerli ad andare al voto anticipato prima che nel prossimo autunno scattino i requisiti per l'attuale legislatura. E quindi vi segnalo questa vicenda che infiamma l'atmosfera in Parlamento tra 5 Stelle che sono contrari e PD che invece accusano i 5 Stelle di inventarsi questa accusa infamante contro il PD, ma la sintesi la fa il titolo del quotidiano La Verità di Belpietro, che dice: pur di votare Renzi vuole regalare 50.000 euro a ogni parlamentare. Ovviamente non è Renzi, è un titolo polemico, un po' tirato per i capelli, ma la sostanza è questa, e ci tornerò sopra domani esattamente a questi microfoni. Sentiamo rapidamente come la pensano alcuni di voi intanto sulla vicenda dei voucher. Rita da Bologna, Rita prego. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono una dipendente, sì. Quindi non sono un datore di lavoro, non sono niente. Gestisco l'amministrazione di una piccolissima impresa artigiana. Sì. E quest'anno per la prima volta abbiamo usato i voucher, perché fino adesso ci hanno sempre detto che nei cantieri assolutamente era impossibile usare i voucher, in quanto mancano i corsi della sicurezza e quant'altro. E non si capisce perché tutti nelle edilizie lavorano con i voucher. Esperienza? Esperienza positivissima, sì. Anche perché secondo me il problema dei voucher è, come al solito, l'italiano, non è il voucher, è l'italiano che fa il furbo, ecco. E che lo usa quindi, in modo improprio. Ecco, è l'uso sbagliato e non lo strumento in sé sbagliato. Esatto, noi abbiamo dato 10 euro all'ora alla persona che è venuta a lavorare per noi, abbiamo comprato tanti voucher per quante ore lui lavorava, onestamente, da parte sua e da parte nostra. Quindi nessun problema, abbiamo raggiunto il limite, il budget dei 2.000 euro, finito il rapporto di lavoro e fine dei giochi per lui e per noi. Ok, perfetto, quindi un giudizio positivo, e magari però c'è chi abusa. Ricordo a chi è in ascolto che i 10 euro del voucher si suddividono in 7 euro e mezzo pago oraria minima per il percettore, i 2 euro e mezzo sono di contributo in parte gestione separata INPS per i diritti previdenziali e in parte INAIL, non c'è la parte contributiva e quindi non si ha diritto all'accesso alle prestazioni di integrazione al reddito, quindi i trattamenti di disoccupazione, gli assegni per i figli e così via eccetera eccetera, tutto questo col voucher non si prende. Sentiamo quella pensa invece Giuseppe da Torino. Giuseppe. Sì, buongiorno, io la penso un po' come Rita, la differenza è che sono un datore di lavoro e la mia domanda è: se si abolissero i voucher, i lavori che oggi vengono retribuiti con voucher correttamente, Giuseppe, cosa ne faremmo? Questa è una non buona domanda. Più, io in nero non pago nessuno, non potrei pagare le persone. Dovrei fare straordinari oppure non faccio fare quel lavoro lì? Allora, Giuseppe, la risposta che danno i difensori dei voucher ma con correzioni, io stesso sono un difensore dei voucher ma con correzioni, perché secondo me ci sono dei settori in cui si abusa, a dire la verità, e credo che abbiamo bisogno di dati, cioè i dati di quella ricerca di Anastasia vanno approfonditi, generalizzati, estesi, e poi bisogna arrivare a delle conclusioni. Ma detto tutto questo, chi difende lo strumento ma è anche disposto a cambiarlo come me dice in effetti che per la maggior parte di quei lavori aggiuntivi per assistere gli anziani, le lezioni private, cari professori che date agli insegnanti, voi cari dipendenti che dite sempre che sono solo gli autonomi a non pagare le tasse, i piccoli lavori di manutenzione domestica, giardinaggio e così via. È inutile che ci raccontiamo storie, la maggior parte di questi lavoretti prima si faceva in nero, secondo non si fa un contratto di lavoro per queste mansioni se non c'è il voucher. Il motivo per il quale nel nord Europa, cominciare dalla Francia, che non è certo un paese liberista, e il Belgio, questi strumenti ci sono da tanti anni, hanno avuto successo, sia pure disciplinati in una maniera un po' più vincolata dell'estrema liberalizzazione che c'è stata in Italia, è questo qua. Quindi io per queste ragioni sono d'accordo con Giuseppe nel dire dobbiamo difenderlo, ma non nascondo che alcuni settori di attività produttive, secondo me, li utilizzano in maniera impropria e li vanno levati. Io ho conosciuto e ho trattato casi di aziende che li hanno utilizzati per pagare al posto gli straordinari. In quel caso bisogna usare il pugno di ferro, secondo me, di ferro. E quindi bisogna intervenire, è inutile negare il contrario. Allora, ci ha raggiunto intanto un grandissimo scienziato e medico italiano, il professor Giuseppe Remuzzi, che è medico chirurgo specializzato in ematologia, nefrologia, coordina le attività di ricerca dell'Istituto Mario Negri di Bergamo e del Centro Malattie Rare Aldo Celle d'Acco. È stato per anni alla testa del Dipartimento Pubblico Privato di Immunologia e Clinica dei Trapianti di Organo al Mario Negri. Insomma, stiamo parlando di un grandissimo scienziato italiano di romanza riconosciuto a livello mondiale. Il professor Remuzzi ieri è intervenuto su un tema su cui periodicamente interviene, che gli sta molto a cuore e che secondo me lo rende anche uno dei protagonisti del dibattito pubblico italiano, non fa solo lo scienziato. Che cosa ci ha ricordato ieri in un suo articolo sul Corriere della Sera, in un suo intervento sul Corriere della Sera? Sintesi estrema: assumiamo subito i giovani medici e così facciamo scomparire le liste d'attesa, ma soprattutto ne abbiamo bisogno perché nei nostri ospedali l'età media è fottutamente avanzata dei medici. Non può esistere una buona medicina con un'età media dei medici di 55 anni. È corretto, professor Remuzzi, la mia sintesi? È perfetta, sì. È solo che questo significa che quanti ne dovremmo assumere? Ma io penso che dobbiamo cominciare gradualmente ad assumere, arrivando a coprire gli 80.000 medici che lasceranno il servizio nei prossimi anni. Questa è l'ordine di grandezza. Io immagino che si possa fare una pianificazione per cui si assumono 80.000 giovani medici nell'arco dei prossimi 5-7 anni. E insomma, un po' di miliardi in più. Però lei dice l'alternativa, una volta che arriva a maturazione complessiva di pensione tutta questa questo grande blocco di medici di età media oramai molto avanzata, è peggio che procedere a una pianificazione di assunzione dei giovani abilitati di questi numeri, cioè 80.000 in 5 anni. Così è peggio, secondo lei? L'alternativa è peggio, l'alternativa è che si fermino delle situazioni che abbiamo creato con tantissima fatica. Ci sono dei gruppi in Italia formidabili nei nostri ospedali di cui magari non ci si accorge. Una cosa straordinaria dell'Italia è che se uno sa dove andare ha l'assistenza migliore che si possa immaginare in qualunque paese del mondo. Ecco, attenzione il però, professore, problema perché è lei che uno non sa quando dov'è. Dice se uno sa dove andare, la mia richiesta da anni è sia per quello che riguarda l'istruzione pubblica, come si fa in Gran Bretagna, e di qualche passo avanti l'abbiamo fatto, nel senso che il sistema di valutazione inizia a pubblicare i dati comparati di tutte le scuole italiane, ma per il sistema, per il Servizio Sanitario Nazionale, anch'io vorrei, per tipo di patologia, trattamenti e percentuale di successo, o un grande portale che consenta al malato e al familiare del malato di comparare l'efficienza e anche l'efficacia della spesa, ma l'efficienza in maniera dove andare. Da noi invece il turismo, si chiama così tecnicamente, sanitario e ospedaliero, si fa per relazioni e conoscenza. Sì, questa è una cosa terribile, non solo, ma le dico di più, all'interno, io lavoro in un ospedale meraviglioso che è l'ospedale di Bergamo, all'interno del mio ospedale bisogna sapere dove andare. Esatto. E al pronto soccorso dipende da chi trovi, non è la stessa cosa per tutti. Questo che cosa fa capire? Che la cosa di cui si parla di meno è che la sanità è fatta di uomini, è fatta di infermieri, è fatta di medici. Non importano i modelli, non importa tutto quello che si pensa, le carte che si scrivono, sono gli uomini che fanno la differenza. Allora abbiamo la fortuna di avere questi ragazzi. Non so se qualcuno si ricorda che io ho molto criticato questo test di medicina, sì, che chiedeva quando è nato Barba Blu, sì, o chi ha scritto Barba Blu, eccetera. Io l'ho criticato, mi sembrava una cosa che non avesse senso. In realtà questi ragazzi che hanno fatto il test di medicina e che sono stati ammessi alla specialità attraverso un test che adesso noi abbiamo nei nostri ospedali, sono fantastici, non c'è confronto con quelli di 20 anni fa, di 10 anni fa, non c'è veramente nessun confronto. Allora dobbiamo dare in mano gli ospedali a questi ragazzi, dobbiamo mantenere negli ospedali chi ha davvero interesse per il sistema sanitario nazionale, e questi insegnano, perché per quanto uno sia bravo non può inventarsi un neurochirurgo o un cardiochirurgo bravo, bisogna insegnartelo. E quelli che non sono interessati, secondo me, dovrebbero essere orientati alla professione privata, nelle strutture private. Abbiamo tantissime strutture private, e quindi, interessato vada lì. Tra l'altro, quando noi parliamo di privato, una cosa che nessuno discute mai è che il nostro non è un privato privato, sullo quale io non avrei nessun problema. È un privato sostenuto da noi, è un privato, sì, sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale. Senta, io invito tutti i nostri ascoltatori a leggere questo libro, Siamo Geni, tra l'altro soprattutto per chi non ha letto i libri precedenti del professor Ramuzzi, in cui si fa un viaggio, no, nel corpo umano attraverso il nostro codice genetico in 44 capitoletti, e apposta cito uno dei passaggi che sicuramente colpirà molti dei nostri ascoltatori, perché riguarda il tema molto discusso tra i geni e l'omosessualità. Leggo, lei scrive: i geni o i geni dell'omosessualità non sono stati identificati, ma c'è una certa evidenza che la predisposizione all'omosessualità sia genetica. Già questo fa saltare tutti, fa far saltare tutti per aria dicendo: ma qui questa è omofobia, qui questa è scienza nazista, eugenetica, ma di che caso si parla? Invece nelle pagine successive il professor Mussi vi aggiorna sullo stato della ricerca su questi argomenti e avanza una tesi che mi ha fatto sobbalzare. In realtà esattamente i geni su cui si studia per l'eventuale correlazione con l'omosessualità nel caso maschile sono associati anche a una maggiore fecondità dello sperma, tanto da far pensare che questa potrebbe essere una soluzione autoequilibratrice della natura rispetto al fatto che in media la fecondità maschile diminuisce e la presenza di questo gene un po' si allarga per contribuire alla fecondità. Ho capito bene, professor Ramuzzi? Sì, sì, ha capito benissimo, perché dal momento che gli omosessuali occupano la maggior parte del loro tempo a fare un sesso che non è finalizzato alla riproduzione, c'è il grande problema di come il gene per l'omosessualità, ammesso che esista, ma ci sono fortissime ragioni per pensare che esista, riesca a diffondersi. Beh, io devo dire, io la ammiro anche perché mi sembra un tema sul quale molti penseranno che sia follia. Però leggete il libro del professor Ramuzzi, Siamo Geni. Io ringrazio intanto per i suoi interventi anche nel dibattito della sanità civile. Continuate su Radio 24, appuntamento con me alle 4:30 stamattina e domani mattina alle 8:20.